La pietra è una fronte dove i sogni gemono, senza aver acqua curva né cipressi ghiacciati. La pietra è una spalla per portare il tempo, con alberi di lacrime, nastri e pianeti. Ho visto piogge grigie correre verso le onde, alzando le tenere braccia crivellate per non essere prese dalla pietra stesa, che scioglie le loro membra senza bere il sangue. Perché la pietra coglie semenze e nuvole, scheletri dall'odole e lupi di penombre, ma non dà suoni, né cristalli, né fuoco, ma arene e arene e altre arene senza muri. Ora sta sulla pietra Ignazio il Bennato. Ormai è finito. Che c'è? Contemplate la sua figura. La morte l'ha coperto di pallidi zolfi e gli ha messo una testa di scuro minotauro. Ormai è finito. La pioggia entra nella sua bocca. Il vento come pazzo il suo petto ha scavato e l'amore, imbevuto di lacrime di neve, si riscalda in cima agli allevamenti. Che cosa dicono? Un silenzio putrido riposa. Siamo con un corpo presente che si sfuma, con una forma chiara da usignoli, e la vedemmo riempirsi di buchi senza fondo. Chi increspa il sudario? Non è vero quello che dice. Qui nessuno canta, né piange nell'angolo, né pianta gli speroni, né spaventa il serpente. Qui non desidero altro che gli occhi rotondi per vedere questo corpo senza possibile riposo. Voglio vedere qui gli uomini di voce dura, quelli che domano cavalli e dominano i fiumi, gli uomini cui risuona lo scheletro e cantano con una bocca piena di sole e di sassi. Qui io voglio vederli, davanti alla pietra, davanti a questo corpo con le redini rotte. Voglio che mi mostrino l'uscita per questo capitano legato dalla morte. Voglio che mi insegnino un canto come un fiume, che abbia dolci nebbie e profonde rive, per portar via il corpo d'Ignazio e che si perda senza ascoltare il doppio fiato dei tori. Si perda nell'arena rotonda della luna, che appare quando è bimba dolente, bestia immobile. Si perda nella notte senza canto di pesci e nel bianco spineto del fumo congelato. Non voglio che gli copran la faccia con fazzoletti perché s'abitui alla morte che porta. Va, Ignazio, non sentire il caldo bramito. Dormi. Vola, riposa, muore anche il mare.